Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Tommaso Mannoni, regista del film Il sogno dei pastori, al cinema da giovedì 10 ottobre 2024, distribuito da Ombre Rosse, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. Raccontaci di questo lavoro. È un lavoro che abbiamo scritto qualche anno fa, che ha una lunga genesi, perché abbiamo scritto prima con un altro sceneggiatore, poi sono subentrati altre persone, altre mani a scrivere la sceneggiatura. Si tratta di un film che cerca di unire il dramma che c'è in Sardegna, dei pastori, della produzione del latte, della vendita di vite caseari, che purtroppo non che è vera questa, situazione reale, che proprio non hanno dei guadagni così sufficienti a mantenere il proprio lavoro, e io ci ho voluto creare un gioco di ironia dove i miei riferimenti erano un po' Jarmusch, un po' Kusturica, un po' Carismacchi, in cui agivano in maniera divertente e anche bizzarra attraverso il progresso, attraverso la tecnologia, attraverso internet, per trovare dei soldi in modo più semplice. E ne esce fuori un film che cerca di unire due generi, quello del dramma e quello della commedia, che però sta stare in un solco che è quello a me caro, quello antropologico. È profondamente filologico rispetto all'ambiente, ai personaggi, seppur ci sono momenti sia di ironia che di dramma. Com'è stato il lavoro di scrittura e poi di messa in scena? La scrittura sono intervenute, come dicevo, per i sceneggiatori ad aiutarmi a tenere in equilibrio queste due atmosfere, quella dell'ironia e quella del dramma. Noi in Sardegna non abbiamo un carattere ironico identico a quello italiano, abbiamo un'ironia un po' più col controtempo, col controcanto, quello che direbbero i musicisti, quindi era difficile, non sapevamo se riuscivamo a trovare nello spettatore il sorriso. Poi durante i festival, durante le proiezioni, pare che abbiamo portato a casa questa virtù anche nei confronti di spettatori nazionali, non solo regionali, per cui ci siamo riusciti. E l'altra cosa difficile era sempre come cornice il dramma in cui si vive al centro della Sardegna, con le poche agevolazioni che si ha da parte degli enti regionali, pubblici, a favore di un lavoro importante, quello del pastore. E la messa in scena è stata cercare di riprodurre con dal documentario, di non ricostruire nessuna realtà, ma bensì di mirarla. Non ci sono scenografie costruite ad hoc, non c'è una messa in scena finta, come se fossimo in quello che si chiamava un tempo un neorealismo, per cui la maggior parte di essi sono tutti attrici stardi che conoscono, che hanno parenti, che hanno stati pastori, insegnanti, eccetera, per cui era facile ritrovarsi in questo percorso, anche per loro. Ecco, com'è stato il lavoro con gli interpreti e le interpreti? Innanzitutto ho avuto la fortuna, per quanto attiene proprio il materiale umano, di avere, conoscevo già il 99% di quelli che hanno accettato di fare i vari ruoli, sapevo che erano degli ottimi professionisti e siamo riusciti subito ad entrare in sintonia. Certamente stiamo parlando di un film di finzione, però tenendo proprio là alto il senso del sentire, sentirsi a proprio agio in quel vestito, in quel ruolo. Perché ognuno di noi che fa l'attore, l'avvocato o altre professioni, qua in Sardegna ha un forte legame con la terra, col mondo agropastorale, eccetera, perché in qualche modo o un parente o un lontano amico ha avuto a che fare con quel lavoro, quindi era facile contattare quel tipo di DNA, perché un pochettino ce l'abbiamo. Quindi è stato abbastanza facile nel senso della lavorazione, la costruzione del lavoro, e la risposta è stata anche facile per loro. Poi certamente abbiamo preparato molto il film prima di realizzarlo, invece è stata una grossa preparazione. Che distribuzione sarà? È una distribuzione piccola, indipendente, la stessa casa di produzione si sta occupando della distribuzione. In questo momento far distribuire un film in sala è molto difficile in Italia, poiché ci sono le grandi case di produzione che impongono i loro lavori alle sale. La casa di produzione sta direttamente contattando le sale. Per fortuna il film sta avendo un piccolo successo nei festival, quindi ha questi griff, questi score presso i festival in cui prende menzioni, viene selezionato in competizione ufficiale, eccetera, anche fuori Italia. E diciamo che i proprietari delle sale, quando poi lo vedono, ne hanno subito un grande entusiasmo, piacere di portarlo nelle sale. Per cui con difficoltà, però con il contatto diretto, a volte si riesce a ottenere dei risultati che non sarebbero stati sperati fino a poco tempo fa, perché adesso le sale, per fortuna, stanno prendendo persone, anche a Roma ce ne sono un paio, persone che direttamente cercano di aiutare il cinema di qualità e di grande impegno che c'è in Italia, che c'è. Ci sono tantissimi autori e autrici molto in gamba, molto bravi, che però purtroppo vengono schiacciati da poteri forti che guardano ben altre cose. Il film Il sogno dei pastori al cinema da giovedì 10 ottobre 2024, distribuito da Ombre Rosse. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso Mannoni. A presto! Grazie, grazie a voi, a prestissimo. Buona giornata. Con Francesco Costabile, regista del film Famiglia, al cinema da mercoledì 2 ottobre 2024. Ben trovato. Ciao, eccomi, ben trovati. Cosa hai raccontato? Ho raccontato la storia di Luigi Celeste, che è un ragazzo che ha solo 23 anni, si trova nella condizione disperata di dover uccidere un padre per salvare la sua famiglia. Questo fatto è successo appunto nel 2008. Gigi poi ha scontato la sua pena, oggi è un uomo libero, e questo film racconta la sua storia, racconta quindi la storia di una famiglia alle prese con violenze psicologiche e fisiche. Come nasce questo film? Nasce proprio dal libro autobiografico Non sarà sempre così di Luigi Celeste, che ho letto un paio di anni fa, e a partire da quel libro abbiamo iniziato a lavorare sulla scrittura ed eccoci qua, adesso siamo nelle sale. Com'è stato il lavoro di scrittura? È stato complesso, perché una storia familiare, una storia curale, è una storia che necessita una grande tensione, quindi è un film che abbraccia diversi generi cinematografici, tra cui il thriller psicologico, per far sì che il film in qualche modo possa essere un pugno nello stomaco. Quindi è stato lavorato tanto in scrittura e sempre c'è stata poi la consulenza delle vere vittime, cioè la famiglia Celeste, e anche la consulenza dei centri antiviolenza che mi hanno seguito in scrittura. Su quali elementi ha voluto centrare l'attenzione? Innanzitutto la violenza psicologica, perché spesso la violenza psicologica, la violenza assistita, cioè la violenza che subiscono i bambini quando assistono a episodi di violenza, sono episodi o violenze che non sono spesso identificate dalle stesse vittime, ma che generano ferite e traumi molto profondi. Quindi di questo argomento bisogna parlarne, perché si parla sempre spesso di violenze fisiche, ma ci sono altre forme di violenze subdole, più sottili, che sono tipiche poi degli uomini predatori e manipolatori. Di questa vicenda cosa ti aveva impressionato? Mi ha impressionato il carico umano di questa vicenda, nel senso che spesso quando noi leggiamo di fatti di cronaca legati a femminicidi, a violenze di genere, è tutto molto sintetizzato nel dato cronachistico. E questa storia invece permette di entrare nella psicologia dei personaggi e quindi andare in profondità a una narrazione che spesso invece risulta semplificata. Com'è stata la scelta degli interpreti? Io ho avuto la possibilità innanzitutto di lavorare con due grandi professionisti che sono Francesco Di Leva e Barbara Ronchi, quindi questa scelta è stata una scelta piuttosto immediata, perché loro hanno amato tantissimo il copione, quindi siamo partiti subito con la scelta di questi due grandi protagonisti. Poi invece per quanto riguarda i ragazzi, ho fatto mesi di casting e ci sono delle giovani scoperte che sono molto promettenti nel panorama italiano, che sono ad esempio appunto Francesco Ghedi, che ha vinto un premio a Venezia come miglior attore, Tecla Insolia, che è un'attrice giovanissima che ha esordito con L'arte della gioia di Valeria Golino. Il lavoro in scena com'è stato? Io sul set cerco di dare sempre grande libertà agli attori e cercare di far sì che l'attore sia vivo in scena. Quindi chiedo anche di cambiare a volte la scena, cambiare le battute, sporcare le battute, improvvisare. Quindi cerco di pormi in una dimensione anche di sorpresa e di ascolto rispetto a quello che possono darmi gli attori sulla scena. Una delle prime cose evidenti dalle inquadrature alle musiche è un'atmosfera allucinata. Sì, è un'atmosfera quasi da incubo, per restituire proprio quel senso di oppressione claustrofobico, psicologico che si vive all'interno di una famiglia. Quindi io trascino lo spettatore in questo viaggio all'interno di quello che è l'orrore che si vive in una famiglia dove si respira quotidianamente violenza. Il titolo? Ho scelto questo titolo perché la desinenza latina ci riporta quella che è l'ombra che si cela dietro il concetto di famiglia, che poi l'origine è il patriarcato. Cioè, per famiglia si intende quel contratto di servitù che il padre famiglia aveva a disposizione col matrimonio verso i propri figli, verso la propria moglie, quindi un contratto di possesso e di dominio. Che uscita è? Il film è distribuito da Medusa, ha 300 copie, quindi è un'uscita piuttosto corposa, insomma è facilmente reperibile. Il film Famiglia al cinema da mercoledì 2 ottobre 2024, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Costabile. A presto! Grazie! Con Dario D'Ambrosi, regista del documentario Io sono un po' matto e tu, ben trovato. Ciao a tutti e invito veramente ad andare a vedere questo film documentario. Io lo definirei più un film che documentario solo perché in qualche modo nel film ci sono dei dati che sconvolgerà il nostro paese, perché è un po' un grido d'allarme della situazione psichica del nostro paese, perché si dà informazioni che in Italia ci sono 17 milioni di persone che soffrono di un disturbo psichico, e se tu ci metti a fianco un papà, una mamma, un fratello, ci rendiamo conto che due terzi della popolazione italiana è coinvolta con la malattia mentale direttamente o indirettamente. Ecco, sono dei dati che fanno riflettere, però per fortuna sono riuscito a fare un film anche con molta ironia, con molta leggerezza. Infatti ho voluto portare delle psicosi quotidiane dove il pubblico si può rispecchiare in queste piccole patologie: l'insonnia, l'udopatia, l'ossessione per il sesso, l'anoressia, la barbabietà. Ecco, grazie a questo cast di attori, da Claudio Santamaria, Raul Bova, Edoardo Leo, Marco Bolci, Stefano Fresi, Vinicio Marchionni, Claudia Cerini, Stefania Rocca, c'è anche Domenico Iannaccone e 30 ragazzi miei disabili psichici, devo dire che siamo riusciti a mettere insieme una storia surreale ma che farà riflettere. Noi abbiamo bisogno che tanta gente veda questo film, perché l'incarico sarà devoluto esclusivamente a una ricerca scientifica sul cervello, che darà speranza a tantissime famiglie con ragazzi disabili psichici. Com'era nato il progetto? L'idea era quella di fare una formazione cinematografica, perché noi partiamo come una compagnia stabile di teatro che giriamo tutto il mondo. Infatti l'anno prossimo saremo a Seul, saremo ad Atene, Londra, gireremo veramente mezzo mondo. E l'idea di fare anche una formazione di cinema ci ha portato poi, con la collaborazione di queste star, di questi VIP, ho pensato: ma perché perdere tempo a fare lezioni, quando i ragazzi hanno bisogno di praticità, di capire come si fa il cinema. E così, quando ho chiesto a questi attori, ma vogliamo girare un film, siamo riusciti a realizzare questo sogno, anche se il film è stato girato in 24 ore, non 24 ore solari, ma la disponibilità di questi tutti attori è stata di 24 ore, 4 ore Claudio Santamaria, 3 ore Stefano Presi e così via. Alla fine la disponibilità è stata di 24 ore di questi VIP. Come lo hai strutturato? Ho cercato di capire a chi potevo far lavorare le scene a secondo delle patologie dei ragazzi, e secondo me la riuscita e la bellezza di questo film sta nella sensibilità e nella delicatezza del rapporto che si è creato tra questi attori famosissimi e i miei ragazzi malati di mente. Per esempio la scena che dovevamo fare con Raul Boba, a un certo punto un ragazzo disabile ha avuto una crisi epilettica, e sai, quando c'hanno le crisi non sai quando si riprendono, e a quel punto io ero angosciato perché Raul Bova mi aveva dato 2 ore di tempo per girare. A questo punto ho detto: Raul, io sostituisco lui con qualche altro ragazzo, e lui mi ha detto: no, io aspetto che lui si riprenda, io la scena la voglio fare con lui. E questo ti fa capire il perché questo film ha una grandezza umana assolutamente esclusiva ed unica. Secondo te queste carenze rispetto ai problemi di salute mentale come andrebbero affrontati? Innanzitutto con più aiuti economici, sia strutture come la mia che curiamo 60 ragazzi, ma nell'arco dei 40 anni ne ho curate 1700 senza aiuto da parte di nessuno dello Stato, ma soprattutto non abbandonare le famiglie, dove veramente io vedo una desolazione e una solitudine estrema, perché io vedo famiglie che vengono con figli catatonici, ma loro più distrutti dei figli. È bellissimo vederli dopo un paio di settimane che mi dicono: Dario, guarda, non lo so se mio figlio o mia figlia diventerà un'attrice o un attore, ma so che da quando viene al teatro patologico noi dormiamo alla notte. Ecco, lì capisci lo straordinario lavoro che facciamo. E poi la gente deve capire che quando sta bene un malato di mente non è che sta bene un ragazzo, stanno bene migliaia di persone, sta bene il papà, la mamma, i fratelli, i nonni, il condominio, il quartiere. E da qui dobbiamo partire se vogliamo migliorare la nostra società. Tutte le informazioni per sapere le sale dove sarà disponibile? 150 sale in tutta Italia. Sul nostro sito del Teatro Patologico troverete tutte le sale dove uscirà in Italia. Il film documentario Io sono un po' matto e tu? Un saluto e un ringraziamento al regista Dario D'Ambrosi. A presto! Grazie! Con Giovanni Filippetto, autore del documentario Gabriella, in anteprima giovedì 10 ottobre 2024 a Roma al Cinema Farnese e in onda su Rai 3 sabato 12 ottobre 2024. Ben trovato! Buongiorno, buonasera, ciao! Raccontaci un po' di questo progetto. Gabriella è un documentario su Gabriella Ferri che nasce dall'idea di io volevo raccontare questa artista straordinaria che non è stata tanto raccontata. Sì, è stata raccontata negli speciali, ma non con un documentario vero, non con un film. Insomma, è stata poco raccontata. Mi sembrava un po' dimenticata, mentre invece mi sembrava importante riportarla alla ribalta perché è stata un'artista unica, molto sui generis. Una vita difficile, complicata, che batta. Buio, luce e buio, però comunque una grandissima interprete che riscriveva le canzoni della tradizione popolare, proprio le riscriveva senza cambiare musica, senza cambiare le parole, però con l'interpretazione e con le parole che cantava come se fosse la sua vita. E questo credo che sia importante riportare alla luce con questa artista qua, così nasce questa idea qua. Poi mi contatto la famiglia, contatto il figlio, Sieva Borza, che Junior, perché volevo fare una cosa che in qualche modo fosse avallata da loro, cioè da Sieva e dai suoi familiari, perché non mi andava di parlare di una persona che poi non fosse riconosciuto. E allora, parlando con loro, mi sono fatto un'altra idea, ancora altre idee, e così nasce. Come hai sviluppato poi il progetto? Mi sono focalizzato su periodo di Gabriella, cioè perché non volevo raccontare la biografia di Gabriella mi sono focalizzato su un periodo che va da quando è diciottenne, frequenta Piazza del Popolo, i bar di Piazza del Popolo, perché ha voglia di mangiarsi la vita, di avere un suo ruolo nella vita, perché lì fino a quel momento insomma aveva avuto poche opportunità, però la grande curiosità del mondo dello spettacolo, di fare qualcosa nella vita, e vi frequenta gli intellettuali dei bar di Piazza del Popolo, che negli anni 60, una Piazza del Popolo che non c'è più adesso, e da lì comincia a suonare la chitarra in piazza, a fa cose, conosce Luisa De Santis, si chiama attrice, insomma io racconto da lì poi fino agli anni 70-80, quando è successo in televisione, poi mi fermo lì perché lì mi sembrava il punto più alto della sua carriera, e poi dopo quello che è successo, insomma. E per fare questo ho fatto un bel po' di ricerche, materiali di repertorio Rai del Istituto Luce e poi interviste. Ho scelto un po' di persone da intervistare che secondo me erano più adatte per questo tipo di racconto, e ho diviso un po' per capitoli, e si racconta un po' appunto quel mondo di Piazza del Popolo, si racconta quando lei va a Milano con Luisa De Santis per fondare il mondo della musica, rocambolescamente ci riescono, ma è tutta una roba da raccontare, molto divertente, anche un mondo che non c'è più, frequentando il cabaret dei milanesi, e poi comincia a cantare un po' la musica popolare, va al Bagaglino quando ancora stava in vicolo del centro di Roma, da lì con Pippo Franco vincitore, Orazio Dionello canta lì, e poi dopo va in televisione. Nel frattempo c'è Sanremo 69, alcune tournée in Sud America, e questo è diciamo l'arco narrativo del racconto, attraverso le interviste chiaramente. Ho intervistato Carlo Verdone, Renzo Arbore, vincitore, regista, ho intervistato Pippo Franco, poi ho intervistato Tosca, Siria, che ha fatto uno spettacolo su di lei, e poi qualche giornalista. E il figlio, Sieva Borda, che è le figlie del figlio. Che ritratto ne viene fuori? Due tipi di ritratti, secondo me, per riassumere. Viene fuori il ritratto di una donna scaltra, bellissima, ma non nei canoni estetici che tutti si aspettano. È una donna molto libera, generosa, una donna del popolo, da una parte. Dall'altra viene fuori il ritratto di una unica, grandissima interprete, infissa con le canzoni popolari, e che esprime tutto d'attento attraverso la voce e la personalità. L'unica è che non ha avuto nessuno che l'ha imitata né che ha tentato di farlo, perché comunque si propone come cantante che racconta quello che canta, con la voce e con l'interpretazione. È proprio quella cosa che adesso quando ti dicono dei talent tu arrivi perché le parole le senti proprio, cioè questa è una cosa che sembra strana adesso, ma lei era proprio padrona assoluta di questo modo di cantare, e proponendosi come una donna che non aveva voglia di apparire bella per forza, ma di essere bella a prescindere, cioè non aveva vestiti da sciantosa o chissà che cosa. Il suo successo in televisione lo fa vestita da clown, insomma, per dire, che è dove sta Zazà. Quindi una donna che è molto libera, erano gli anni 70, comunque. Documentario Gabriella, in anteprima giovedì 10 ottobre a Roma al Cinema Farnese, e in onda su Rai 3 sabato 12 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore Giovanni Filippetto. A presto! Grazie, grazie tante, arrivederci, ciao! Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la quarta edizione del progetto DocuSfera a Roma, Sentieri Selvaggi, da venerdì 11 ottobre 2024. Ben trovato. Grazie, grazie, sempre molto contento di apparire sulle tue frequenze, Federico. È un progetto che già seguiamo da tempo, raccontiamolo. DocuSfera è in qualche maniera l'emanazione di una ricerca che Sentieri Selvaggi porta avanti da decenni, sia sulle sue pagine cartacee e online, che andando in giro per festival, intervistando gli autori, supportandoli. Ad un certo punto abbiamo deciso che ci fosse proprio la necessità di farli vedere questi film, il documentario italiano, il cinema del reale, la non fiction, come si chiama adesso nei festival, ha sempre bisogno di spazi. Non ce ne sono tantissimi in Italia. Per noi era importante trasformare la nostra sede di Giacarlo Botta 19 all'Esquilino in un luogo di incontro dove gli autori potessero mostrare i loro film, dove potessero parlarne insieme a noi, insieme ai nostri studenti, insieme alla redazione, insieme al pubblico che può venirle a vedere a ingresso gratuito, e forse la possibilità di mostrare un cinema che troppo spesso rimane sommerso. E cosa significa oggi documentario? È sempre più difficile dare una definizione a questa forma. Proprio ieri sera al Nuovo Sager c'erano Massimo D'Onofrio e Martina Parenti, come giustamente anche la tua trasmissione aveva segnalato, con Bestiari, Erbari, Lapidari, e in qualche maniera venerdì diamo anche noi il nostro apporto alla discussione, iniziando una serie di proiezioni che ci porterà avanti fino alla fine del 2024. Venerdì, per esempio, siamo molto contenti di mostrare due film di un autore a noi molto caro, che è Leandro Picarella, che sarà con noi sala a parlarne con il pubblico. Facciamo Divinazioni e poi Segnali di vita. Sabato, un esordio nel lungometraggio di una cineasta molto interessante che seguiamo fin dai suoi cortometraggi, delle sue opere brevi, che è Irene Dorigotti. Il film si chiama Across. La sera invece L'Avamposto di Edoardo Morabito, che è un documentario su quello che lui stesso chiama un guerriero green, un guerriero dell'ambientalismo che cerca di salvare un pezzo di foresta amazzonica attraverso questa folle idea di far riunire Pink Floyd per un concerto in Amazzonia. E a proposito di concerti, domenica pomeriggio la proiezione è dedicata invece al documentario su Richard Benson, Benson, la vita è il nemico, proprio per raccontare forme diverse, dal documentario sporcato di finzionalità al documentario d'astrazione, dal documentario totalmente soggettiva a quello che si perde nei paesaggi più vasti, fino appunto a un documentario come quello su Benson, che racconta anche in qualche modo una città come la nostra, come Roma. Come vi state muovendo per la ricerca dei titoli e degli ospiti? Docusfera, come dicevo prima, fa tesoro di una serie di connessioni che Sentieri Selvaggi tiene in piedi sia nei festival che frequenta che nei festival che organizza in giro per l'Italia, e in qualche modo per noi è un dialogo continuo con questi autori. Si tratta di una conversazione che non finisce. Sia Leandro che Edoardo li abbiamo intervistati per il nostro sito, li abbiamo seguiti nei festival, li conosciamo, e in qualche maniera Docusfera è il punto d'arrivo, o comunque un'altra tappa di un percorso che per noi è fondamentale in quanto critici e divulgatori, mettiamola così, che è quella di mantenere vivo e costante una connessione che avvicini gli autori ad un pubblico. La cosa bella di fare una rassegna di questo tipo è quella proprio di riuscire a unire magari delle traiettorie che difficilmente si incrociano, perché questi film, lo sappiamo, li vediamo ai festival, poi magari hanno un'uscita di quell'evento e poi finiscono su qualche piattaforma. Insomma, dare a questi film la possibilità di incarnarsi in qualche modo, di apparire, per noi è fondamentale. Quindi Leandro, Edoardo, Irene, li seguiamo da sempre, e il film su Richard Benson fa parte di un piccolo sottogruppo di 4 film connessi invece con la città, perché crediamo fortemente che chi organizza eventi in un territorio debba essere per forza di cose immerso in quel territorio e costruire un legame anche con il luogo dove proietta queste cose, dove le fa vedere, dove invita gli autori. Non sono eventi astratti, ma fortemente calati nell'Esprilino, in Piazza Vittorio e nella città. Che cadenza avrà Docusfera e come sarà organizzato ogni singolo evento rispetto a proiezione e incontro? La cadenza è nei weekend, faremo venerdì, sabato e domenica, o venerdì e sabato. Adesso facciamo questo primo weekend, poi ci fermiamo per la festa del cinema di Roma, riprendiamo poi a fine ottobre e per tutto novembre. Il programma è costantemente in progress su tutti i nostri canali, Sentieri Selvaggi.it, la newsletter, le pagine social. Proprio sulle pagine social sarà possibile vedere la diretta di tutti gli incontri, cercheremo di avere il più possibile gli ospiti a presentare i film. Quindi si vedrà il film e poi ci sarà questo incontro, chi sarà di persona, chi invece si collegherà in videochiamata con la sala, e come già nelle scorse due edizioni, anche quest'anno abbiamo una retrospettiva. Quest'anno è dedicata a Costanza Quadriglio, vedremo i suoi lavori documentaristici fino a Cassetto Segreto, quindi Terra Matta, 87 ore, insomma sono film fondamentali in qualche modo per la ricerca documentaristica in Italia, e Costanza sarà con noi per una masterclass. Tutto questo lo faremo appunto a novembre, dopo la festa del cinema di Roma, per non intasare le agende dei cinefili romani. Quarta edizione del progetto Docusfera a Roma, Sentieri Selvaggi, da venerdì 11 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo. A presto! A presto, grazie! con Sergio Mario Illuminato, regista del cortometraggio Vulnerare. Ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Che racconto hai fatto? La curiosità creativa era quella di capire i corpi, la vulnerabilità e l'arte che rapporto hanno. E poi scopri alla fine che è un rapporto sulla realtà, sul nostro quotidiano e sul cammino che facciamo da quando siamo nati. E quindi in qualche modo è un processo sull'arte, ma è un processo su me stessi. E scopri che alla fine tutti questi corpi che si inseguono, che si mischiano nel mondo e che sono intrinseci di vulnerabilità, hanno ancora qualcosa da dirci, che non è in collegamento con il fatto biologico o psicologico, ma proprio è una questione intellettuale e morale prendere consapevolezza della vulnerabilità e dei nostri corpi. Come nasce tutto? Nasce dal contatto, cioè nasce dalla capacità che abbiamo, appunto perché abbiamo un corpo, e viviamo tutta la nostra evoluzione attraverso questa dimensione tattile, e nasce dal riconoscere l'importanza del contatto, cioè del tatto che entra in comunicazione, in espressione con un altro volume tattile, che sarebbero gli altri corpi. C'è una cosa meravigliosa che Nancy ha spiegato benissimo, il filosofo francese, che il contatto ci permette, sì è vero, di riconoscere, sentire l'altro, toccando, sfiorando la sua pelle, ma ci permette anche di riconoscere noi stessi. Noi non abbiamo possibilità di sapere chi siamo senza entrare in contatto con gli altri. E questa è una cosa meravigliosa, nell'arte è fondamentale, perché se esplori questo territorio e lo fai sulla tela o sui materiali di scultura, ti accorgi che questi corpi, i pigmenti colorati, entrando in contatto con altri pigmenti, raccontano una storia. Questa storia non è solo la storia del pittore, che in questo caso deve fare, e nel nostro caso, nel caso di questo cortometraggio, deve fare molti passi indietro, quasi per dare modo, noi che siamo intrisi di cultura, di dare spazio alla natura. E per farlo devi permettere alla natura di esprimersi con il suo flusso. Come è venuta l'idea di questo cortometraggio? Come quello che sta avvenendo adesso. Nel nostro racconto io sto camminando. È sempre un'erranza, non bisogna stare fermi. Errare dà la possibilità di sbagliare. Erranza, errore. Nella mia erranza, a un certo punto mi sono trovato, quasi 2 anni fa, davanti a una struttura al centro di Velletri, completamente chiusa, e la curiosità di capire cosa ci fosse dietro. Tu pensa, ci stanno 7 milioni di posti che sono chiusi, abbandonati nel mezzo delle nostre città e non ci facciamo più caso. Questi posti sono quelli che vengono rimpossessati dalla natura, dove comincia un connubio molto importante tra chi l'ha costruito, la cultura, e la natura che cerca di rimpossessarsene. Comunque mi trovo davanti al cancello di questo carcere, comincio a impossessarmi della sua storia, è un ex carcere pontificio dell'Ottocento, in attività fino a 30 anni fa. 30 anni fa 400 tra detenute e detenuti escono da questo carcere, e da quel momento in poi è stato cristallizzato il posto. Ci sono le scritte dei detenuti, ci stanno le brande, gli effetti personali, una storia di un'intensità straordinaria proprio nella memoria, nell'assenza, nel silenzio. Trovato in quel posto ho pensato che non potesse tutto finire lì, anche perché qualche mese dopo sarebbe stato demolito e non ci sarebbe stata più nessuna memoria. E allora ho preso, insieme a un gruppo di professionisti del cinema, di teatro, di danza, pittura, scultura, siamo stati 6 mesi dentro questo ex carcere e abbiamo creato dei dispositivi artistici, da cui poi il cortometraggio. Il titolo? Vulnerare, la capacità di ferire e di essere feriti. Come hai pensato la messa in scena? È molto complicato ogni specifico linguistico per raggiungere la sua capacità massima di espressione, ma questo non faccio altro che ripetermi a un grande maestro che è Pierpaolo Pasolini, ha bisogno di essere avvicinato seguendo diversi punti di vista. Quindi io che già dipingo e realizzo sculture e uso quindi dei meccanismi creativi molto selettivi, lì si trattava di mettere insieme più possibilità disciplinari, e quindi la fotografia è fondamentale, per esempio, perché deve essere talvolta calda e molte volte raccontare questi toni freddi, perché ha ormai assunto la pelle del carcere, così come gli allestimenti, le brande, i volumi disseminati delle storie delle detenute ormai abbandonati e marciti dentro le celle, avevano bisogno non solo di essere ripresi per come sono, ma cercare di far uscire proprio le parole da dentro questi volumi, perché sono le parole di vita di tantissima gente. E quindi poi ha fatto un'analisi fotografica, un'analisi degli allestimenti, avevi la necessità di riportare in vita questa che era una memoria. E l'arte, secondo me, è l'unica possibilità che abbiamo di ricreare una esperienza con quello che è stato ereditato. E quindi moltissime cose della nostra vita, nel nostro quotidiano, vengono scartate, ma c'è sempre qualcosa che resta. Quello che resta è un aspetto fondamentale della nostra esistenza, perché dove noi abbiamo agito, dove noi personalmente abbiamo espresso un giudizio, abbiamo raccolto una memoria e una eredità. E quindi era fondamentale che il cortometraggio riuscisse, attraverso l'intervento di passi coreografici, di movimenti di pittura e di scultura, di riraccontare la vita di questo posto. Credo, almeno dall'impressione che abbiamo avuto qui a Parigi da gente che subito dopo la proiezione è venuta da me e mi ha fatto emozionare, perché l'emozione, che è uno spostamento da noi verso gli altri, mai all'inverso, è l'esatta genuinità che queste persone di diverse età mi hanno dato, spingendosi verso di me, volendomi contattare per dire che effettivamente ci sono possibilità per l'arte cinematografica, che è una sua grande magia, di arrivare a toccare gli altri quando è genuina e quando è sincera. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul tuo cortometraggio? Sul sito Io sono vulnerabile c'è un link cortometraggio. Cioè, sono tantissimi materiali per approfondire la cosa. Dopodiché sta viaggiando per i festival internazionali, perché è stato selezionato come cortometraggio in concorso come opera prima, e il 6 dicembre saremo a Roma per un'anteprima speciale al Museo di Villa Altieri. Il cortometraggio Vulnerare, un saluto e un ringraziamento al regista Sergio Mario Illuminato. A presto! Grazie, a presto a tutti e grazie di questo intervento. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese del portale. Ben trovato, Paco. Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Questo mese abbiamo diverse novità, ma soprattutto ci stiamo preparando ai prossimi mesi invernali, che sono sempre molto importanti per le distribuzioni indipendenti. Intanto ci tengo a segnalarvi due cose che ci riguardano direttamente, e cioè i due film SNK Factory usciti a fine del 2023, ovvero Fear Seekers in cerca di cura e Kissing Gorbachev, che oltre a continuare le loro rispettive tournée in Italia non solo, sono anche ora disponibili in streaming. Kissing Gorbachev già da qualche settimana sia in streaming che in formato cofanetto, e Fear Seekers in cerca di cura invece dallo scorso 1 ottobre con l'uscita appunto nella storia catalogo streaming. Come ben sapete, questo tipo di azioni o di finestre streaming online non sostituiscono l'azione nei territori, quindi entrambi i film sono ancora disponibili per quanto riguarda la possibilità di organizzare proiezioni pubbliche nei cinema e anche fuori dai cinema. E che sì, questo è un caso emblematico, nel senso che il tema che racconta in tutte le sue sfaccettature, ovvero il tema del concetto di cura nel 2024, è sicuramente un tema che sentiamo molto nostro. Abbiamo inoltre annunciato, per chi passasse da Bologna, la terza edizione della Sala Open, in collaborazione con il Cinema Teatro della Lira di Bologna, che partirà il 24 ottobre 2024. Abbiamo pubblicato intanto anche i primi quattro titoli della rassegna da qui a fine anno, poi in realtà la rassegna finirà a maggio 2025, che sono Romina, un bellissimo documentario di Valerio Lomuzio e Michael Petrolini, che è stato girato anche nel 2024, Una vita all'assalto, un documentario geografico sulla storia degli assalti frontali, Un paese di resistenza, film che distribuiremo nelle sale cinematografiche e che torna a Riace per raccontare ciò che raccontò all'epoca Un paese di Calabria, che fu pluripremiato e prodotto da Serena Granizzi, e in qualche maniera è, senza cura delle stesse autrici, la continuazione di quell'opera, che OpenDDB lo porterà nelle sale italiane a partire appunto dal 21 novembre, con prima visione assoluta al Cinema Teatro Galliera. faremo poi una serata il 5 dicembre con il documentario indipendente Romagna Tropicale, che è un lavoro organizzato sul territorio della Romagna e, come potete intuire, che tocca il tema, ahimè, ormai non solo consueto, ma anzi che torna spesso e che torna anche nelle scorse settimane, del dissesto idrogeologico in questa regione. Allora, questo per quanto riguarda le attività sui territori e le attività sui territori. Per quanto riguarda le novità dello streaming della piattaforma, vi segnalo alcune delle uscite di questo mese. Sicuramente due titoli molto diversi, ma in qualche maniera intrecciati, perché intrecciano di nuovo, come è il caso anche di Romagna Tropicale, da un lato ciò che è il rapporto delle comunità con i territori, soprattutto quando i territori sono devastati da qualche calamità, in particolar modo 12 anni fuori, di Silvia Storchi racconta ciò che è successo nei 12 anni successivi al terremoto del 2012 che colpì appunto l'Emilia Romagna, dal punto di vista di come le comunità dal basso hanno provato a ricostruire la propria quotidianità e le proprie vite, e anche tutto quello che riguarda invece i tanti punti non chiari anche di quella vicenda e di tutto quello che riguarda la ricostruzione. L'altro è Varvilla di Valerio Nesini, già autore anche di DB con Transumanzature e altri lavori che ha fatto in passato. Valerio è un autore che si è molto concentrato invece su quello che è il rapporto tra le comunità e i territori, inteso come reimmaginare nella contemporaneità un rapporto, quali sono le strade alternative per creare un rapporto vincente tra i territori e le comunità, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità, piuttosto che dell'attenzione al non devastare i territori in cui le comunità vivono e crescono. E abbiamo molti lavori di questo tipo e Varvilla in qualche maniera va ad aggiungersi a quella lunga lista di film che attenzionano questo tipo di racconto, come per esempio anche il film Pastorismo che prenderemo il prossimo mese del collettivo Boschilla, che è un collettivo che da tanti anni produce questo tipo di opere e di ricerca forte su questi temi. L'ultimo che vi segnalo invece è un bellissimo documentario che ci è arrivato di un autore indipendente, due autori indipendenti anzi, il documentario si chiama Mi chiamano Cipolla, e rientra invece in quello che sono la sezione sulle biografie personali, diciamo, che spesso accogliamo e raccontiamo soprattutto per toccare tematiche importanti come il diritto alla casa, i meccanismi di integrazione in questo paese, il razzismo e quant'altro. Questo film racconta la storia di Yasmin, che è detto appunto il Cipolla, che è un ragazzo che vive in un campo rom e che racconta tutto il suo percorso, anche che si intreccia non solo con le proprie scelte di vita, e quindi in maniera molto geografica, ma anche con tematiche come il diritto ad avere una casa, il diritto ad avere un lavoro sicuro e ben retribuito e quant'altro. Anche questo film rientra in ormai un catalogo estremamente vasto, ricordiamo che OpenDB.it ha al suo interno ormai più di 900 opere che attenzionano a tematiche sociali, in questo caso come il diritto alla casa e il diritto alla sicurezza sul luogo di lavoro, che per noi sono parte centrale del codice in qualche maniera politico ed etico che la piattaforma ha da tanti anni. Un abbraccio Paco, alla prossima! Grazie a voi, a presto. Con Jay Weisberg, direttore artistico della 43esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone dal 5 al 12 ottobre 2024, ben trovato. Grazie Federico, buongiorno. Raccontiamo cos'è questo festival. Il più grande festival del cinema muto nel mondo e anche ovviamente il più importante. È un festival che si terrà per una settimana dalle 9 della mattina fino al mezzanotte, sempre con musica dal vivo, per ogni film. Quest'anno abbiamo più di 200 film, ovviamente lungometraggi e anche cortometraggi, da tutte le parti del mondo, soprattutto quest'anno, perché per esempio abbiamo due programmi dedicati ai paesi meno conosciuti anche per i cineasti, e cioè America Latina, in cui abbiamo 10 film da 10 paesi, tipo Argentina, Cuba, Ecuador, Brasile, Paraguay, e anche un'altra sezione dedicata ad Uzbekistan. E con questo abbiamo 6 titoli, 6 lungometraggi, e molto interessanti, in cui si può vedere l'influenza del montaggio sovietico, ma anche sempre con un base dentro la cultura uzbek. Abbiamo anche frammenti, per esempio, la maggior parte del cinema muto è tutto perduto, parliamo sempre di 75%, ma questo è solo per gli Stati Uniti e l'Europa, qualche paese dell'Europa, Quando parliamo per esempio di un paese tipo Brasile, ma anche Giappone, ma anche Polonia per esempio è molto molto di meno, e comunque nonostante questo ce ne sono sempre le scoperte e anche ovviamente le restauri. Come saranno articolate le giornate? Il festival comincerà sabato 5 ottobre con una preapertura a Sacile il 4, con una commedia di Harold Lloyd, una commedia bellissima, Girl Shy, che si terrà anche durante le giornate, durante il festival, il giovedì sera. Queste sono le operazioni più interessanti anche per il pubblico, e anche abbiamo ogni giorno un programma in streaming, quindi anche per quelle persone che non può venire a Pordenone è sempre possibile di avere almeno un gusto dei film sempre con musica, e ovviamente in streaming sono in musica registrata dai nostri musicisti, e nel Teatro Verdi di Pordenone ce ne sono sempre in musica dal vivo. Da quali archivi provengono i lavori? Almeno un trentina di archivi, ovviamente quelli dell'America Latina, ce ne sono tante, anche Uzbekistan, ma ce ne sono archivi da Stati Uniti, California, New York, Francia, ovviamente Parigi, Germania, tutte le parti del mondo, Danimarca, Svezia. Come sempre, per noi uno dei motivi per fare questa rassegna, questo festival, e di dare un occhio alla luce degli archivi che lavoro sempre, sono sempre le cose un po' misteriose, cosa si fanno lì, ma per noi sono come le biblioteche, cruciale, si può avere la possibilità di vedere la storia del cinema. Ci sono anche opere inedite in questa edizione? Voglio parlare per esempio dei nostri serati di apertura e chiusura, tutti e due western dal 1926. Per l'apertura c'è i tre birbanti, The Three Bad Men, un western di John Ford, con una partitura scritta da Timothy Brock e eseguita dall'Orchestra da Camera di Pordenone, e anche lo stesso orchestra per il nostro serato di chiusura, The Wailing of Barbara Worth, Sabbia Ardenti, sempre 1926, una partitura scritta da Neil Brand, commissionato dalle giornate del cinema muto. E voglio sottolineare che con questo film, The Wailing of Barbara Worth, è anche il primo ruolo importante per un giovanissimo Gary Cooper. Le musiche dal vivo ad opera di chi saranno? Come ho già citato, Timothy Brock e Neil Brand sono i compositori per il nostro serato di apertura e chiusura, e Dan Vandenhorst per Girl Shy, la preapertura anche il giovedì sera. Ma durante la settimana c'è sempre i nostri 10 musicisti, i nostri master musicisti, e quest'anno con l'aggiunto di 2 musicisti che provengono dall'Uzbekistan per accompagnare 2 dei film con strumenti tradizionali. Tutti i riferimenti web per il programma? www.giornatadelcinemamuto.it e anche in streaming nostro partner è mymovies.it. 43esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone dal 5 al 12 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. A presto! Grazie Federico, ciao, buona giornata. Con Stefano Locati, direttore artistico della terza edizione di Sogni Elettrici, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza, a Milano, alla Università Yulma, dal 7 al 12 ottobre 2024. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è. Sogni Elettrici è un festival che parte dal cinema e quindi è un concorso di lungometraggi e di cortometraggi in anteprima italiana, appartenenti ai generi della fiction speculativa, ma non si ferma e non si limita al cinema e ragiona su tutte le forme mediali narrative che hanno a che fare col fantastico e la fantascienza. Quindi ci sono previsti incontri su letteratura, videogiochi, fumetti, le relazioni tra tutti questi media tramite anche le nuove tecnologie e la scienza, insomma. Oltre a questo, il svolgendosi il festival all'interno di un'università, l'Università Yulm di Milano. C'è anche un convegno internazionale con ricercatori da tutto il mondo che ragionano appunto sui fantastici, sulla fantascienza e su come questi influenzino la vita quotidiana di tutti i giorni. E il tema di quest'anno inevitabilmente purtroppo i conflitti e margini, che è il titolo del convegno, e quindi come i conflitti creino e impongano poi la marginalizzazione di determinate categorie di persone, naturalmente tramite la lente delle narrazioni speculative. Quante sono le opere presentate in questa edizione? Quest'anno ci saranno 11 lungometraggi in anteprima italiana, come dicevo, provenienti da tutto il mondo. Ci sono diversi film che credo siano molto interessanti, a partire dal film greco Scylla of the Blossoms Moor, che è una sorta di rilettura del tropo della macchina del tempo con invenzioni visive strabilianti da parte del regista. C'è poi l'adorabile Viaggio di una famiglia di Sasquatch in Sasquatch Sunset, statunitense, che è prodotto da Ari Aster con un Jesse Eisenberg irriconoscibile sotto appunto la prostetica che lo trasforma in un Bigfoot. C'è il nuovo film della regista sudafricana Kat Segan, che tra l'altro sarà ospite del festival, che aveva vinto la prima edizione dei Sogni Elettrici nel 2022 con Glass House, che torna con un nuovo film di fantascienza, The Fix, su una droga che permetterebbe di superare la tossicità dell'aria in un vicino futuro, ma che comporta anche delle mutazioni per chi assume. Poi ci sono altri film, appunto anche uno dei primissimi esempi di fantascienza che viene dalla Repubblica Dominicana, Aire, Joss Brie. Un esempio invece di film olandese ambientato in un medioevo fantastico, diretto da un specialista di effetti speciali che ha lavorato a grandi blockbuster statunitensi e hollywoodiani, che qui riporta appunto la sua capacità di ricreare mondi altri rispetto al nostro, creando un medioevo veramente sporco e molto marcio. Insomma, uno spettro credo a 360 gradi su quanto è stato prodotto nell'ultimo anno. Oltre a questo ci sono naturalmente anche i cortometraggi, sono 21 in tutto, anche qui partendo da tutti i continenti, e anche qui ci sono tante sorprese. In base anche al tema di quest'anno, com'è stata la scelta artistica dei titoli? Come sempre la primissima guida è il fatto che i film ci convincessero, ci piacessero, ci emozionassero. Dopodiché naturalmente abbiamo notato che il clima mondiale insomma influenza anche l'immaginazione, l'immaginario, e quindi molti dei film che abbiamo selezionato hanno a che fare in qualche modo con i conflitti. Appunto si parla sempre di futuro o di azioni appunto fantastiche, ma che in qualche modo rappresentano o ragionano sullo stato di conflitto permanente in cui ci troviamo a vivere. Anche un film ad esempio come I Saw Three Black Lights, che è un film colombiano che era passato alla Berlinale, che racconta di uno sciamano che è giunto alla fine della sua vita e deve trovare un posto dove morire, però anche questo viaggio allegorico riporta in vita una serie di conflitti che attraversano quel paese, quella zona del Sud America, e quindi anche in questo caso ad esempio riemerge questo tema. Quindi sotto traccia credo sia presente in tante delle opere selezionate. Detto questo, naturalmente la prima cosa è stata trovare film che ci emozionassero e sorprendessero alla visione. Tutti i riferimenti web per il programma? Sul sito internet, che è sognielettrici.yulm.it, l'ingresso a tutte le proiezioni, a tutti gli appuntamenti e gli incontri è totalmente gratuito, non c'è bisogno di prenotazione. Terza edizione di Sogni Elettrici, Festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza, a Milano, alla Università Yulm, dal 7 al 12 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Locati. A presto! Grazie e buoni Sogni Elettrici. Con Joana Fresu de Azevedo, co-direttrice artistica della 21esima edizione del Festival Cinematografico 16 Corto a Forlì dal 4 al 13 ottobre 2024, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Sono, come dicevi giustamente, co-direttrice artistica, insieme a me il fondatore del Festival, Gianluca Castellini. Spieghiamo questo Festival, cos'è? 16 Corto è alla sua 21esima edizione, festival di cortometraggi nato anche semplicemente, come dice il nome, da una domanda: cosa succedeva a chiedersi cosa fosse un cortometraggio. Da lì un evento ogni anno in crescita, riceviamo ormai quasi 4.000 cortometraggi ogni anno e con importanti collaborazioni con festival nazionali come internazionali. Quest'anno ad esempio abbiamo una ricca selezione di oltre 150 cortometraggi per una 10 giorni di grandi eventi anche legati al mondo dell'animazione. Come avviene la selezione? La selezione è un processo lunghissimo, e anche perché appunto i titoli da vedere sono tanti. Abbiamo un comitato di selezione di circa una decina di persone, tra appassionati del genere puro a critici cinematografici, giornalisti, programmer professionisti, e cerchiamo di guardare i cortometraggi che ci arrivano cercando già di ipotizzare una loro suddivisione nelle nostre principali categorie concorso, che sono dedicate ai cortometraggi internazionali, al cortometraggio italiano, al cortometraggio di animazione ma anche sperimentale. Come una particolare attenzione viene data con le nostre selezioni corto in loco a tutto quello che è il cinema corto in Emilia Romagna, con una particolare attenzione anche al cercare di scovare quei giovani talenti che secondo noi potranno rappresentare il futuro del cinema in Emilia Romagna. E perché no, non solo, finora ci è andata bene, perché comunque abbiamo registi che sono passati da 16 Corto e che sono diventati molto noti, da Pippo Mezzapesa, Ciro D'Emilio, Laura Lucchetti che sarà ospite del festival quest'anno, Gianluca Santoni, ma tra i nostri annali abbiamo anche un Gabriele Mainetti, un Sidney Sibiglia. Insomma, in questi 21 anni abbiamo visto passare da noi tanto cinema italiano. Come sarà strutturato rispetto agli orari e ai luoghi? I luoghi ci piace ricordare, soprattutto in un periodo in cui si parla spesso di crisi della sala, che già da 5 anni 16 Corto continua a mantenere il rapporto con l'unico cinema de sé di Forlì e l'unica sala cinematografica che è rimasta nel centro storico. Sto parlando della Sala San Luigi, che ospiterà la gran parte della programmazione del festival da venerdì 4 e fino a tutto il secondo weekend di ottobre, quindi fino a domenica 13. Ci saranno dei momenti di proiezione con le nostre selezioni, sia in concorso che non in concorso, momenti di incontro con i premiati speciali. Ricordo che avremo Giorgio Colangelis, Elena Caramazza, Andrea Arru e, come dicevo, Laura Lucchetti, con uno speciale omaggio non solo di tipo regionale a Orfeo Orlando, che ha avuto modo di lavorare con grandi registi quali Amelio, Manetti Bros e Giorgio Diritti, per poi spostarci del secondo weekend, quindi da venerdì 11, alla Fabbrica delle Candele, un luogo di ex architettura industriale rimodernato e ricondiviso per la comunità come spazio culturale, che ospiterà anche il nostro evento Industry, l'Apix, legato al mondo dell'animazione e del videogaming e dedicato soprattutto a quei giovani che si stanno affacciando al mondo dell'animazione attraverso accademiche o scuole di cinema e che vogliono entrare a contatto con importanti studi professionali, e noi diamo loro la possibilità di avere dei momenti di masterclass ma anche portfolio review con rappresentanti tra i più grandi studi di animazione al mondo. Tutti i riferimenti web per il programma? Tutto il programma scaricabile online o visibile dal sito lo trovate su 16corto.it, così come sempre 16 Corto è il tag per trovarci sui social, Facebook e Instagram che sia. 21esima edizione del Festival Cinematografico 16 Corto a Forlì dal 4 al 13 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Joana Fresu de Azevedo. A presto! Grazie a voi, a presto!